certo che mi aveva detto che l'avevo conosciuto, e come, che la faceva diventare una star anche. Quando mi chiamava gli dicevo: dove sei? Sono da lui, lei rideva, no? E certo che ho il numero del presidente.